Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentornati a Salva Danaio. Allora, oggi è la festa della donna, lo sapete benissimo, piaccia o non piaccia, questa ricorrenza viene ogni anno discussa in vari modi, trova spazio nel dibattito generale, stamattina inchieste su tutti quanti i giornali, soprattutto inchieste che si occupano del ruolo della donna nel mondo del lavoro, del tema delle pari opportunità. Anche noi stamattina abbiamo dato grande spazio nel corso del nostro palinsesto a questo argomento con Oscar Giannino, poco fa ci ha passato il microfono anche Nicoletta Carbone che si occupava di cervello femminile. Cosa ci fa questo tema Salva Danaio? In molti se lo chiederanno. Parliamo di un tema particolare, parliamo anche noi di donne, soprattutto di donne nel mondo del lavoro, di donne che hanno bisogno di stare nel mercato del lavoro e di donne che dopo la maternità faticano a rientrarci. Certo, la crisi attuale non aiuta ed ecco allora che avanzano progetti per permettere alle neomamme pronte a rimettersi in pista dal punto di vista professionale di farlo magari anche attraverso ruoli flessibili capaci di far conciliare vita familiare e vita lavorativa più facilmente, senza dimenticare però un aspetto che ovviamente agli imprenditori interessa molto, i risultati aziendali. Allora oggi noi alle mamme e alle famiglie, all'ascolto e anche alle aziende, presentiamo tre iniziative alle quali queste figure possono aderire. Moms at Work, il primo servizio italiano di intermediazione professionale completamente dedicato alle mamme e alle loro esigenze di flessibilità nel lavoro. Parleremo di fiocchi in azienda, di manager in Italia e parleremo anche dell'operazione Mamma Serena avviata dall'Agenzia per il Lavoro Open Job, che mira invece a dare un supporto alle aziende, soprattutto a quelle piccole, che a volte vivono come un problema insormontabile l'allontanamento temporaneo di una dipendente per la maternità. Chiamateci se volete saperne qualcosa di più, raccontateci le vostre esperienze. 800 24 00 24, il numero verde ovviamente per i vostri contatti telefonici, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Vogliamo dare un tono molto concreto alla nostra trasmissione stamattina, aiutarvi a cercare quei canali che possono aiutarvi a risolvere questo frangente molto importante, ma a volte anche molto delicato, della vostra vita. Ripeto, mi voglio rivolgere alle mamme, ma ci rivolgiamo soprattutto alla famiglia, quindi anche ai papà sensibili su questo argomento, perché molto spesso, come dire, anche questo è un altro aspetto magari da tenere in considerazione, forse l'uomo non vive ovviamente questa tematica nella maniera altrettanto forte come può viverlo appunto una donna. Non vogliamo però fare la distinzione di genere questa mattina perché non ci piace, e allora ci rivolgiamo proprio alle famiglie. Prima di partire con il nostro argomento, poi vi presenterò naturalmente i nostri ospiti di questa mattina, diamo un'occhiata alla borsa che è positiva soprattutto Piazza Affari, più 0,47% stamattina sul FTSE MIB, mentre dopo una partenza positiva hanno virato in negativo Parigi e Francoforte e Londra, che stanno perdendo fra lo 0,2-0,3%. Il mercato ha ancora questa reazione che è stata fino a poco fa totalmente positiva in Europa, il dato sull'occupazione americana che è stato diffuso venerdì scorso. Adesso vi dicevo, per alcuni indici europei marcia indietro, ma tutto sommato una tenuta rispetto appunto ai rialzi di venerdì scorso. Euro su dollaro a 1,3652. Italcementi, Parmalat e Saipem stanno trainando la seduta di Piazza Affari. Geox invece negativa per 3,5 punti. Autogrill meno 3, Ansaldo meno 1,56%. Direi di lasciare subito la borsa, andiamo subito al nostro tema di stamattina a cui teniamo molto. Mamme dopo la maternità al lavoro, che opportunità hanno? Sentiamo. Lavoro e figli, un binomio che non sempre è facile da conciliare e che comporta per le donne notevoli sacrifici, sia in termini fisici che professionali. In Italia, soprattutto, la maternità sembra ormai essere una vera e propria sfida. Nel 27% dei casi, infatti, la nascita di un figlio coincide con l'abbandono del lavoro. Vale a dire che una neomamma su tre non torna in azienda dopo la maternità, una percentuale, la nostra, tra le più alte d'Europa. Ecco perché stanno nascendo sempre più progetti dedicati proprio a quelle donne che in seguito alla nascita di un figlio si trovano a dover compiere una scelta di vita e che incontrano difficoltà nel proseguire la propria carriera professionale. Si tratta di percorsi mirati che di fatto affiancano le donne, anche se in modi diversi, sia durante la gravidanza, sia nel reinserimento in azienda. Tuttavia, esistono anche progetti opposti, dedicati cioè a quelle aziende che per un determinato intervallo di tempo devono privarsi di una figura professionale e che necessitano dunque, nella maggior parte dei casi, di nuova forza lavoro, anche se temporanea. Nostri ospiti di questa mattina, Cecilia Spano, coordinatrice del progetto Moms at Work, benvenuta. Benvenuta, grazie. Marisa Montegiove, vicepresidente di Manager Italia, responsabile di Fiocco in azienda, benvenuta anche lei. Buongiorno, grazie. E naturalmente non potevamo farci mancare la componente maschile questa mattina, perché sennò l'hanno fatta tutta in rosa la trasmissione. Rosario Rasizza, amministratore delegato di Open Job, benvenuto. Grazie. E sono benvenuto fra le donne. Benvenuto fra le donne questa mattina in questo gineceo. Allora, io ho ricordato i numeri per intervenire, naturalmente 800 24 00 24 è il numero verde per voi. Io vorrei invitare davvero chi ci ascolta a raccontarci magari l'esperienza della propria famiglia per capire che cosa è successo quando una mamma si è dovuta allontanare dal lavoro, ovviamente per gestire la maternità, e come è stato il rientro al lavoro, se c'è stata difficoltà, come ci si è guardati un po' intorno anche in relazione al rapporto con l'azienda, in che relazione si era prima di mollare il lavoro per gestire la maternità, e cosa è successo una volta che si è verificato appunto il rientro, se si è scelta la stessa azienda o se si è deciso di cambiare radicalmente. Ci sono tanti aspetti di questa questione, ovviamente vorremmo cercare di farlo questa mattina anche nella nostra discussione con meno pregiudizio possibile e meno luoghi comuni possibili, e quindi andiamo alla concretezza. Comincio con Cecilia Spano, Moms at Work. Online da oggi, sì, da questa mattina. Abbiamo lavorato fino a ieri notte per sistemare le ultime cose. Moms at Work è un servizio innovativo per l'Italia che, come dicevamo, è il primo a cercare di intermediare mamme, forza lavoro costituita da mamme e aziende, mettere in connessione queste due realtà. Noi sappiamo che le donne, una volta avuto il figlio, in Italia fanno fatica a rientrare nel mondo del lavoro. Ci sono dei dati che dicono che all'aumentare del numero dei figli le percentuali di donne occupate diventano sempre più basse. Moms at Work nasce proprio per andare incontro a questo problema. Abbiamo creato una base dati di un centinaio di mamme. Al momento il progetto è ancora in via sperimentale, cioè lo stiamo proprio iniziando in queste settimane, e l'idea è quella di dimostrare alle aziende quanto una mamma sia in ogni caso una risorsa potenzialmente utile ed efficace all'interno dell'organizzazione aziendale. Quindi per adesso una raccolta di dati relativamente alle professionalità che sono disponibili già sul mercato femminili, sì. E poi farete il lavoro, come dite voi nel comunicato stampa, di matching, esatto. Quindi di incontro con le aziende. Sì. Verso le aziende abbiamo un duplice obiettivo, quello di presentare delle candidature comunque d'eccezione, cioè di figure che hanno dimostrato di avere una professionalità valida. D'altro canto fare anche un lavoro, diciamo, culturale, cioè di mettere insieme in una specie di vademecum della flessibilità tutte le opportunità che possano essere a disposizione loro per reinserire le mamme in un modo che possa essere ottimale anche per le mamme stesse, raccontando, spiegando, dettagliando quanto magari si conosce, ma a volte a livello superficiale. Il nostro scopo è questo, quello di raccontare tutto l'esistente e poi dare alle aziende l'opportunità di cogliere queste opportunità. Marisa Montegiove, vicepresidente di Manager Italia, responsabile di Fiocco in azienda, una manager di successo, quindi una donna che in sostanza, grazie anche all'aiuto di un uomo molto intelligente, è riuscita a coniugare perfettamente la vita familiare con quella professionale, tanto che poi si è voluta impegnare anche concretamente nell'associazionismo per promuovere tutto ciò di cui parliamo questa mattina. Fiocco in azienda, che cos'è? No, tra l'altro volevo anche ricordare che queste iniziative di cui parlo stamattina le stiamo praticamente tenendo a battesimo, quindi siete tutti partendo, sì, proprio in questo periodo. Sì, grazie per l'opportunità proprio di illustrare il nostro progetto, che è nato dalla collaborazione con la Casa Rosa, ed è un progetto che si rivolge principalmente alle aziende, quindi ai manager che noi come Manager Italia rappresentiamo, e alle dipendenti in maternità. L'obiettivo è quello di creare una serenità maggiore proprio nel rapporto tra azienda e dipendente, perché noi sappiamo da indagini che conduciamo proprio su base regolare che sia per le dirigenti che per tutte le dipendenti il momento della maternità comunque è ancora un momento di grosso conflitto, e quindi abbiamo deciso di creare un progetto che in qualche modo cambiasse questa mentalità e quindi in concreto aiutasse entrambi. Quindi che cosa fate concretamente? Allora, innanzitutto abbiamo dato proprio delle piccolissime regole di comportamento che possono essere dalla prima, che è quello il momento in cui la dipendente comunica la maternità all'azienda, E in questo caso l'azienda mette al corrente la dipendente di tutta quella che è la parte burocratica, la parte proprio informativa sul periodo di maternità, quanto è il periodo della facoltativa, quanto è lo stipendio che percepirà in quel periodo, perché da un'analisi che noi abbiamo fatto il 20% delle donne non è così al corrente di quello che l'aspetta, quindi diritti e anche qualche dovere. Poi si procede anche con un fil rouge che ci sarà fra azienda e dipendente nel periodo in cui la donna è assente, quindi tenerla informata su tutto quello che avviene in azienda, proprio per non farla sentire una risorsa abbandonata, ma comunicare che ecco, siamo una risorsa su cui abbiamo investito e vogliamo continuare ad investire anche per il futuro, quindi ti teniamo al corrente di tutto quello che avviene. Evitiamo quindi un po' quello che è il gossip fra colleghe, che ci sta ugualmente, chiaramente, ma che però noi riteniamo sia più serio se viene fatto direttamente dall'azienda. Mi devo fermare perché abbiamo già la prima pausa. Rasizza, allora, per non lasciarle fare un discorso incompleto, la sposto alla seconda parte della nostra trasmissione. Peraltro, se riusciamo, adesso qui lo chiedo a Gaia, vorrei sentire un ascoltatore che ha prenotato il suo intervento all'800240024, che è Franco da Bari, che credo voglia proprio parlarci dal suo punto di vista imprenditoriale di una gestione difficoltosa di una sua lavoratrice che ha avuto due maternità consecutive, non sa come comportarsi. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, un Salvadanaio un po' particolare questa mattina perché si occupa di mondo del lavoro e soprattutto delle mamme che, dopo aver gestito il periodo più bello della propria vita dal punto di vista personale, che è quello della maternità, si ritrovano a questo ritorno nel mondo del lavoro, a volte con difficoltà, e perché magari così il datore di lavoro è un po' scettico anche sulle richieste di flessibilità che magari questa mamma, questa donna può fare. E ci sono delle esperienze molto interessanti nel nostro paese che possono essere assunte come esperienze appunto da cui copiare qualcosa, e ci sono tante altre attività che stanno prendendo corpo, ne stiamo parlando questa mattina, per intermediare la domanda e l'offerta proprio in questo ambito che è molto, molto particolare. Casualmente abbiamo fatto cadere questa trasmissione proprio nella giornata dell'8 marzo, ma naturalmente cercando di dare la massima concretezza alla nostra trasmissione. Allora, tra l'altro, microfoni spenti, Cecilia Spamnu, coordinatrice del progetto Moms at Work, ci ha raccontato che è una mamma felice di 4 figli. Io faccio questa confidenza pubblica alle nostre ascoltatrici, anche perché insomma è un modo anche per spiegare come molto spesso, con grande tenacia e soprattutto con datori di lavoro intelligenti, si possano portare avanti progetti che sembrano, come dire, a volte anche un po' utopistici, come Moms at Work, magari poteva essere qualche anno fa, adesso invece scopriamo che è un tema che diventa sempre più centrale nel dibattito generale. E devo ancora far parlare Rosario Rasizza di Open Job. Rasizza, la faccio aspettare perché le faccio sentire la consulenza che le chiede Franco da Bari. È d'accordo? D'accordo. Benissimo. Franco, buongiorno. Franco, lo abbiamo perso? No, è caduto. Adesso Franco lo recuperiamo, però ci tengo molto perché, da quello che capisco, è un imprenditore che sta gestendo una situazione in azienda che non gli piace molto, una lavoratrice con due maternità consecutive. Però Franco, vogliamo sentire la sua esperienza. Allora sentiamo Paola dalla provincia di Milano e poi andiamo oltre. Paola. Ah, buongiorno e grazie per avermi chiamato. Grazie. Senta, a lei. Io dico, mia figlia mi ha detto, mamma, io dopo 8 ore di lavoro impegnativo non me la sento di mettere al mondo dei figli che poi devo portare a destra e a sinistra come dei pacchi postali, e ha rinunciato a questo. Allora io mi dico, ma perché a un certo punto chi di dovere, il governo, insomma, non istituisce un forzato part time per le donne che hanno uno o più figli? Allora fate il part time, ti diamo uno stipendio un po' inferiore, però ecco, comunque vai a lavorare, lavori se ne hai voglia, no? Primo. Secondo, invece quelle donne che obbligatoriamente per scelta loro, oppure non so, perché non possono per altre ragioni, no? Devono stare a casa a lavorare. il lavoro della casa è più gravoso di quello dell'impiego. Ma sì, ma ci sono anche organizzazioni che si occupano di questo, come la Federcasalinghe. Paola, questo forse è un altro tema. Più interessante il tema precedente che ci ha posto, perché non dovrebbe esserci un'obbligatorietà in certi frangenti, appunto, al part-time da parte delle aziende, perché con molte aziende si può discutere tranquillamente e il part-time ottenerlo con soddisfazione. Dottoressa Montegiove di Federmanager, Manager Italia, sì, ho detto Feder, un'altra associazione questa, di Manager Italia. Sì, è veramente un peccato che la figlia della signora sia costretta in qualche modo a scegliere. Io credo che la maternità sia un periodo talmente importante per la donna e quindi non debba assolutamente rinunciarci per lavoro, e questo è il motivo per cui siamo qui oggi, proprio per dimostrare, e la signora Spano ne è proprio una testimonia, che si possono avere bambini e si possa lavorare. In quanto alla questione del part-time, è vero che ci sono ancora delle aziende che con difficoltà lo concedono, però ormai almeno su questo direi che siamo riusciti a raggiungere un livello abbastanza importante di concessione, insomma, sì. Quindi insomma direi, se mi permette un suggerimento alla signora, di non rinunciare né a un figlio né a un nipotino. Tutto è possibile, le donne hanno la capacità di conciliare che è veramente unica, probabilmente perché ormai ci sono abituate da millenni. No, ma non poi vuol dire, qualche volta il figlio non è detto che sia assolutamente limitante di tutto ciò che attiene al resto della vita, a volte può essere anche uno stimolo a far meglio, e certo. Quindi insomma guardiamolo anche a volte da questo punto di vista. Io poi, per carità, non parlo con esperienza perché non sono mamma, però sono piena di amiche ormai, data l'età che ho, piena di amiche con figli, qualcuna neanche più di uno, e vedo che molte insomma gestiscono con grande serenità e grande capacità tutto, facendo bene tutto quanto. Volevo ritornare al nostro Franco da Bari. Franco. Sì, allora, buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi ricontattato. Allora, vi spiego un po' il tutto, perché sono in enorme difficoltà. Io ho un ristorante in provincia di Bari. Ho due donne che si occupano delle pulizie. Una delle due, appena ha saputo di essere rimasta incinta, mi ha subito presentato il certificato di maternità a rischio. Nel contempo l'altra, per motivi di salute, ha dovuto effettuare un intervento e non è più tornata ancora in azienda. Sì. Questa signora che mi ha portato il certificato di maternità a rischio ha avuto il primo bambino, si è presa la sua bella maternità facoltativa, quindi io non l'ho più vista. Non lo dica con questo tono però, Franco. No, le spiego perché la cosa è bella, cioè noi rischiamo di riprendere lo stesso film di Sofia Loren che aveva i figli per non tornare per vendere le sigarette, per non far andare il marito in galera. Qui da me invece sta signora lo fa per non tornare a lavorare. Allora, lei con me ha un contratto part time. Sì. Praticamente, ha partorito, ha avuto il suo bel bambino, gli abbiamo anche fatto i nostri belli auguri. Lei praticamente mi interrompeva la maternità facoltativa con certificati di malattia, tornava poi un giorno, riprendeva la maternità facoltativa, malattia. Nel contempo mi ha portato la bella notizia che era in attesa del secondo figlio. Chiaramente maternità a rischio, ha avuto il secondo figlio, si è ripresa la seconda maternità facoltativa, solito discorso. Io praticamente, e lei sta mantenendo il posto di lavoro, sì. Sono 4 anni che non la vedo qui in azienda, puntualmente viene a prendersi il suo bello stipendio, dicendomi anche che sta facendo coadiuvare da una... praticamente da una babysitter, perché da sola non ce la fa. Certo. Franco, nel frattempo lei come ha gestito questa assenza nella sua azienda? Comunque l'ha sostituita questa persona, evidentemente. Certo, ho dovuto prendere una persona, pagare questa persona, sto continuando a pagare lei puntualmente viene a prendersi lo stipendio, mi interrompe la maternità facoltativa con i suoi bei certificati medici. Vabbè. Torna, riprende, praticamente sono 4 anni che non la vedo, l'altra comunque è in malattia perché si deve fare il suo bel intervento. Io come devo fare? Franco, lo so, d'altronde tutto sommato la sua collaboratrice agisce nella piena legalità, non fa niente di, come dire, scorretto. Rosario Razizza, io qui vengo a lei. Questa forse è una situazione situazione un po' estrema, quella di Franco, quindi un imprenditore molto insoddisfatto. Però adesso, a prescindere da Franco e questa situazione particolare, sul quale magari possiamo anche dargli qualche indicazione, evidentemente ci sono altre situazioni meno estreme ma comunque problematiche, soprattutto per piccole aziende. Una persona, magari ce lo raccontavamo col dottor Aziz a microfoni spenti prima di avviare la trasmissione, di cominciare la trasmissione, magari una piccola azienda che fa reggere tutta l'amministrazione su un'unica persona, questa persona a un certo punto annuncia che è incinta e deve allontanarsi qualche mese, l'azienda si trova completamente spaesata. Esistono ancora aziende che non sanno assolutamente gestire questi frangenti, è lì che potete eventualmente intervenire noi. Cos'è Mamma Serena? Mamma Serena ha proprio come obiettivo quello di far vivere un momento direi unico, ripetibile per la futura mamma, in piena tranquillità e in piena serenità, anche quando deve dirlo all'imprenditore, al piccolo imprenditore, perché tutto questo nasce così dalla costante e continuo affiancamento che noi abbiamo attraverso le nostre piccole e medie aziende, che molto spesso ci dicevano che questo per loro era un problema, ma il problema era anche per la lavoratrice. Molto spesso aveva addirittura timore di presentarsi davanti al proprio datore di lavoro per comunicargli questa notizia. Allora noi abbiamo detto possiamo far qualcosa, la risposta è stata sì, e il nostro obiettivo è quello di dire all'imprenditore: tranquillo, la tua impiegata, unica impiegata, ti ha detto che è rimasta incinta, è un bel momento, è una bella notizia. Noi ti possiamo aiutare a trovare la sostituta della tua impiegata, magari attingendo proprio a qualche mamma che ha appena finito quel percorso di maternità e che quindi vuole rientrare nel mondo del lavoro e che quindi ha già quell'esperienza per sostituirti, e con l'obiettivo, con la speranza che l'economia possa, tra qui a 10 mesi, 11 mesi, periodo in cui tu rientrerai a lavorare, la speranza che ci possano essere due mamme al lavoro e magari due mamme che condividono lo stesso posto, per rispondere alla prima nonna, no? Alla prima futura nonna, dicendo che quel posto di 8 ore può essere tranquillamente trasformato in un part-time da 4 ore e quindi accontentare due mamme. Insomma, l'obiettivo è quello di aiutare l'imprenditore a gestire al meglio questa bella notizia da parte della futura mamma, e per lui a volte è un po' di preoccupazione. Per Franco non è esattamente un bel momento. Cosa si sentirebbe di suggerire ad una persona che magari viene, dottor Aziz, in una delle sue agenzie, magari proprio nel Barese, dove la persona che ci ha chiamato abita? Questa è sicuramente una questione molto delicata, quella che vive a Franco. Io non voglio dire che ci siano delle mamme, perché non voglio neanche pensarlo, che si approfittano, e però di fatto, insomma, abbiamo di fronte anche una persona che vuole portare avanti le sue maternità mantenendo anche il suo lavoro. Ma io dico che, come diceva prima il vicepresidente di Manager Italia, la mamma sta operando nella sua piena e totale legalità, si sta avvalendo di tutta quella che la normativa, di tutti quegli strumenti che la normativa prevede, per cui direi al nostro imprenditore di guardare avanti, guardare al futuro e di iniziare a inserire nella sua piccola struttura un pochino di flessibilità che gli potrà sicuramente consentire di gestire al meglio situazioni di questo tipo. Dottoressa Montegiove, voleva aggiungere qualcosa sul caso del nostro ascoltatore di Bari? È sicuramente un caso estremo. Lei ha detto prima che sicuramente non vogliamo pensare che questa persona si stia un pochino approfittando di quello che le buone leggi italiane comunque cercano di tutelare, la donna che lavora. Però in effetti sono quegli esempi che purtroppo rischiano di danneggiare altre donne che appunto vogliono avere bambini, che poi magari hanno quella difficoltà a comunicarlo alla propria azienda. Magari Franco un domani, prima di assumere una persona di 25 anni che si sta sposando, ci pensa purtroppo 50 sì, volte. Questo non aiuta le donne, ecco, i comportamenti errati non aiutano noi stesse. Ma naturalmente noi non ci rivolgiamo a queste donne che in qualche modo, io lo dico molto apertamente, approfittano di una situazione. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Tre pronti, Pier Giovanni, Giovanna e Riccardo, li sentiamo tra pochissimo. C'è anche un bel messaggio che volevo leggere di Claudia, 41 anni, bimba di 3, da un anno non lavoro perché lo studio ha chiuso l'attività. Sono vecchia per iniziare un lavoro nuovo? Claudia, mi atterrisce questa sua affermazione data l'età che ha, dove è sempre richiesta esperienza. Io faccio la disegnatrice CAD, troppo particolare, e poi ci saluta. Cecilia Spano, diamo allora attraverso il canale di Moms at Work un'indicazione a Claudia e a tutte le Claudie in ascolto. Quali sono i curriculum, le esperienze che possono confluire nel vostro database? Quindi diamo qualche indicazione pratica. Possono confluire nel database di Moms at Work tutti i curriculum di mamme, di qualunque età e di qualunque professione. Noi poi faremo una selezione, o comunque cercheremo di fare quel famoso matching fra i profili delle mamme e le richieste delle aziende. Io alla persona che telefonava consiglierei questo, di assolutamente mandare il curriculum con un semplice click sul nostro sito internet momsatwork.it, che è online da stamattina, ma soprattutto assolutamente non demoralizzarsi e fare un po' come abbiamo fatto in tante, cioè partire da quello che si sa, quello che si è imparato a fare, e andare avanti di intuizione in intuizione a capire quali sono le modalità in cui il nostro mestiere, quello che sappiamo fare, potrebbe essere utile a qualcun altro, cercando un lavoro come dipendente, pensando di farlo in proprio, mettendosi insieme un'amica, facendolo in due. Quindi, posso raccontare anche l'esperienza della sua socia in affari, Diana Zavarit, che è una collega del Sole 24 Ore, che un mese fa ha deciso di abbandonare questa azienda per imbarcarsi in questa avventura insieme. Anna è un esempio anche per me in questo senso, perché a volte il timore di fare passi nuovi, cioè di avventurarsi verso un mondo della libera professione, spaventa tante mamme. Però se uno ha consapevolezza di quello che sa, e umilmente magari si è predisposto ad un cambiamento, a rimparare da capo certe cose, poi i risultati secondo me vengono, per cui il messaggio è assolutamente positivo. Io sono veramente indecisa su quale ascoltatore o ascoltatrice sentire, cerco di farli tutti telegrafici in modo da dare spazio a tutti quanti. Pier Giovanni da Pordenone, anche la sua esperienza ci interessava, quantomeno quella di sua moglie, perché ci ha un po' stupito il fatto che fosse dipendente di un'azienda pubblica ma costretta a lasciare il lavoro. Pier Giovanni. Buongiorno. Auguri a tutte le donne. Grazie. Niente, la mia storia è abbastanza semplice. Noi abbiamo due bambini, mia moglie è infermiera professionale, quindi dipendente dello Stato, dipendente pubblica. Con la prima bambina abbiamo avuto un'esperienza negativa del nido, nel senso che era sempre ammalata. Col secondo... Che poi anche lì aprire la parentesi del nido, non per le malattie che prendono i bambini in quei posti, ma veramente come punto di vista dei servizi che sarebbero necessari per arricchire un po' questo dibattito, ma questo è un altro tema. Prego, scusi. Giovanni. Col secondo abbiamo deciso di tenerlo a casa, di fare i salti mortali pur di non mandarlo al nido. Ci siamo trovati di fronte a una richiesta fatta di part-time da mia moglie, con una lista di attesa di circa 8 anni. E da qui una denuncia, fra virgolette, sperando che il ministro Brunetta sia all'ascolto. Mentre mia moglie aveva una lista di 8 anni, c'erano delle sue colleghe, parecchie colleghe, che fruivano del part-time da 7, 8, 10 anni, con figli addirittura all'università. E noi siamo stati costretti a quel punto a... Sì, Pier Giovanni, mi scusi, no, c'è ovviamente una grande curiosità intorno al tipo di azienda presso la quale lavorava sua moglie. Un ospedale. Ah, ecco, quindi... perché c'è un po' di... Sì. Di Aviano, per essere precisi. Pier Giovanni, va bene, in un mondo in cui ovviamente è fatto di eccezioni per tante cose, anche questo lo rappresenta, dottoressa Montegiove, però ci stupisce un po'. Sì, assolutamente ci sorprende, non riesco a capire come non sia stato concesso, anche in considerazione del tipo di lavoro, che a mio parere può essere benissimo sostituita la signora per quanto riguarda l'orario che non andrebbe a fare. Tra l'altro gli 8 anni di attesa, di esatto, lista questi 8 anni, non capisco che cosa significhi esattamente, mi perdoni. Premetto che c'era comunque tutta l'intenzione di tornare a lavorare, si chiedeva solo un part time verticale, orizzontale, qualsiasi tipo di part time, in modo da riuscire a organizzarci più efficacemente, però la lista di attesa era lunga proprio perché... Quindi non si poteva evadere la pratica in tempi troppo complicato, studiarla in sostanza. Se questo è dovuto alla burocrazia è ancora più... Sì, infatti. Pier Giovanni, ci descriva la sua esperienza, perché vedo che la dottoressa Montegiove è molto interessata. Siccome vorrei dar spazio anche ad altri ascoltatori, stiamo già chiudendo, ci mancano 4 minuti, comunque abbiamo capito perfettamente che anche nel pubblico, dove sicuramente Brunetta sta facendo tante cose, bisogna fare un po' di più, non tanto fare la lotta contro i fannulloni o quant'altro, ma magari incentivare anche queste politiche di azione, queste azioni appunto per le donne che lavorano nel pubblico impiego. Volevo un attimo ritornare a Rosario Rasizza, perché sennò penserà che l'abbiamo invitato così tanto per parlare solo 2 secondi. Mi stavo chiedendo, anche voi con Mamma Serena siete partiti da poco, se non sbaglio, mi chiedo quante aziende si sono interessate alla vostra iniziativa e come. Ma devo dirvi che anche noi, casualmente, senza esserci messi d'accordo, abbiamo lanciato il progetto proprio in questi giorni, anzi oggi ufficialmente il progetto è partito. Abbiamo fatto un test con una decina di filiali e devo dirvi che circa una cinquantina di aziende hanno già prenotato questo voucher che noi abbiamo pensato per loro, quindi siamo molto contenti, abbiamo visto che questa cosa è piaciuta. Ma infatti bisogna semplicemente qualche volta che uno si faccia coraggio, si armi di santa pazienza e parta, no? Perché poi evidentemente a chi concretamente agisce si accodano in molti e quindi insomma complimenti anche a voi. Vorrei sentire un'altra potenziale candidata al database di Moms at Work, che è Giovanna da Piacenza. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, rapidamente Giovanna, perché ho altre persone, quindi ci racconti. Sì, no, la mia esperienza è un po' diversa, perché io sono una libera professionista con 2 figli ormai grandicelli, però volevo dire che per quanto possa essere tragica la posizione della donna lavoratrice dipendente, credo che quella della lavoratrice libera professionista sia doppiamente tragica. Io quando sono arrivata incinta del primo figlio, il mio avvocato mi ha detto che non c'era più posto per me, me ne sono dovuta andare. Sì, sì. Quindi la situazione è ancora più complicata, ho dovuto mettermi necessariamente in proprio con grandissime difficoltà, perché nessuno ti avrebbe preso. Oggi ho risolto il problema con uno studio femminile, perché il vero problema è la mentalità degli uomini. Gli uomini ancora oggi nell'ambito della famiglia non sono disponibili a rinunciare a un'ora del loro tempo per sostituire la moglie, preferiscono comunque andare al calcetto, e questo poi spiega anche tutta la situazione della crisi della famiglia, e gli uomini sono quelli che in genere governano le aziende, quindi bisognerebbe proprio cambiare la testa degli uomini e comunque di molti, donne, di molti. Fate figli lo stesso. Grazie Giovanna. Non rinunciate ai propri diritti. Grazie Giovanna, sì, bisognerebbe cambiare la testa anche di qualche donna qualche volta, perché qualche volta anche noi siamo al limite di noi stesse. Io purtroppo ho un minuto di tempo, veramente non so dove cominciare per chiudere questa trasmissione, per tirare un po' le fila. Non riesco a sentire Elda da Milano, che è una ginecologa e voleva dirci che bisogna puntare sul tempo flessibile, e Riccardo voleva raccontarci da Barletta che sua moglie lavora mattina e pomeriggio, hanno 2 figli e se vogliono le donne riescono a conciliare lavoro e famiglia, sperando ovviamente Riccardo che abbia accanto le donne, che si abbiano accanto appunto un uomo intelligente. Facciamo un po' di conclusione dando qualche indicazione concreta. Manager Italia, dottoressa Montegiove, a chi si può rivolgere a voi per incentivare le politiche di cui stiamo parlando questa mattina? Il nostro impegno sarà proprio quello di agire sui manager e quindi cercare di cambiare la loro mentalità, cercando di veramente incidere su quelle che sono ormai dei concetti da abbandonare, e quindi fuori discussione, non si può andare avanti in questo modo. Dobbiamo assolutamente cambiare la nostra mentalità, lavorare in collaborazione con le nostre risorse, e questo sarà un po' il nostro impegno per prossimamente. Rasizza Open Job ha tantissime agenzie sul territorio. Rapidamente Rasizza, per concludere. Per quanto ci riguarda siamo a disposizione delle nostre aziende e clienti per aiutarli a sostituire le serene e future mamme. Siete dappertutto, 80 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. Per concludere, di nuovi riferimenti, perché ce lo stanno chiedendo in molte ascoltatrici, di Moms at Job, Moms at Work. Su momsatwork.it sono disponibili informazioni sia per le aziende che per le mamme. Alle aziende chiediamo di interessarsi al progetto e farsi raccontare tutte le cose che sono disponibili. Vi rimetto insieme fra qualche mese, così ci raccontate com'è andata. Grazie a tutte e buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a domani. Voi.